Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Etichette originali rimosse per ringiovanire i prodotti, scadenze nuove di zecca incollate su cibi che sarebbero dovuti essere già stati consumati da un anno. Dopo il maquillage, le confezioni di pasta, olio e sottaceti sarebbero stati sparpagliati in tutto il mondo e c'erano anche alimenti non destinati a consumo umano, stando alle diciture sulle confezioni, tra le 4.000 tonnellate di cibi sequestrati dai NAS in un deposito di Battipaglia a Salerno. È solo una delle tante inchieste in giro per la penisola che hanno evitato che veleni e falsificazioni arrivassero sulle nostre tavole o partissero in direzione di piazza straniere. A volte si tratta di cibi scaduti, altre di marchi d'élite apposti su alimenti che invece quella definizione di origine controllata proprio non avrebbero dovuto averla. Imbrogli, truffe che finiscono in tavola e su cui allunga le mani anche la malavita organizzata. È enorme il giro d'affari intorno alle produzioni alimentari, riflette Antonio Amorosi, al vertice dei carabinieri dei NAS, il nucleo antisofisticazione. Tutto il settore agroalimentare costituisce grosso interesse per la criminalità diffusa di settore, ma anche per la criminalità organizzata. Il fatturato che gravita intorno al comparto agroalimentare in questa nazione è secondo solo a quello siderurgico. Per cui potrei dire che senz'altro sono i prodotti di nicchia di maggiore interesse per il crimine del settore, fermo restando che poi interviene un interesse per il genere di ampia e grossa diffusione. Facciamo degli esempi, parliamo anche di alimenti pregiati. Parliamo, per quel che ci riguarda, di parmigiano reggiano, di prosciutto di Parma, di olio, di vini. I prodotti di nicchia per noi sono prodotti che ci vengono invidiati e spesso artatamente e malamente emulati anche da imprenditori infedeli. Ci sono state negli ultimi mesi diverse importanti inchieste riguardanti proprio le presunte adulterazioni di prodotti celebri, alcuni dei quali lei ha ricordato. C'è stata un'inchiesta che ha messo sotto accusa i formaggi, poi ancora si è parlato di vini importanti italiani. Ci faccia capire se sono innanzitutto prodotti che sono avariati, dannosi quindi anche per la salute, o non rispettano le percentuali previste per avere un determinato marchio, e chi c'è dietro questi prodotti? Va fatto senz'altro una grossa divisione tra ciò che non rispetta un disciplinare per la realizzazione di un prodotto, specie se pregiato, dai prodotti che invece vengono sofisticati e quindi risultano potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Tra i primi, ancorché si tratti di cibi non nocivi, sono cibi o alimenti in genere che non corrispondono a dei dettami specifici per quel prodotto, che ha una denominazione, un'origine, dei processi di realizzazione ben definiti. Di contro invece ci sono poi delle attività di sofisticazione che mediante additivi anche chimici e quindi potenzialmente dannosi riproducono da un punto di vista apparentemente uguale prodotti invece genuini. Parliamo ad esempio degli oli che subiscono delle adulterazioni anche massive per farli passare per come olio extravergine. Parliamo di falsi marchi del consorzio del prosciutto di Parma, che sono applicati invece su prosciutti ordinari, così come per prosciutti di Parma. La criminalità in genere è molto interessata a questo settore, non fosse altro per l'ampia ricaduta economica. Ecco, approfondiremo un po' più nel dettaglio le rotte e i registi di questo mercato illecito di prodotti alimentari, ma tornando un attimo a quello a cui lei faceva riferimento, ossia marchi di riconosciuta qualità messi su prodotti che appunto non rispondono a tutti i requisiti. Lei ha citato ad esempio il prosciutto di Parma, ecco, ci faccia degli altri esempi se ce ne sono, e dall'altra parte chi c'è dietro questa falsificazione, chi sono stati individuati, denunciati, voglio dire, si tratta di concorrenti, di anonimi concorrenti, si tratta di singoli che cercano di fare delle truffe più o meno piccole, o in qualche modo esiste una organizzazione più articolata? Noi ad esempio nell'ultimo Nell'ultima parte dello scorso anno abbiamo fatto delle grosse operazioni nell'area dell'Emilia Romagna, abbiamo sequestrato diverse tonnellate di insaccati e di prosciutti che venivano reimmessi sul mercato, benché scaduti, spesso ahimè anche aggrediti da parassiti e non più microbiologicamente puri, e che subivano una sommaria tolettatura, un riconfezionamento, una reimmissione nei circuiti del consumo. Quindi voi li avete sequestrati ancora nei depositi delle aziende di provenienza o già sugli scaffali dei supermercati? Noi li abbiamo sequestrati in quelle che noi definiamo grandi piattaforme di distribuzione, vale a dire ci sono dei grossisti che reperiscono sul mercato anche alimenti che sono prossimi alla scadenza o appena scaduti, vengono ad esempio sezionati e incelofanati di nuovo per essere venduti poi nei grandi magazzini. Quindi li abbiamo, come dire, individuati un momento prima che venissero immessi nei circuiti di distribuzione commerciale. Ci stava appunto spiegando che avete fatto diversi interventi in Emilia su appunto questi prodotti d'eccellenza italiana, cioè vuol dire che quelli che non sono stati venduti vengono casomai venduti a prezzi inferiori a questi grossisti che poi a loro volta li piazzano presumibilmente in supermercati. Forse quelle più a rischio sono le città più piccole. Tutto ciò che è scaduto non necessariamente nocivo. Lei avrà sentito parlare, ad esempio, che recentemente in Gran Bretagna è molto diffuso il mercato online di cibi già scaduti che vengono venduti a un terzo circa del valore reale, ma non ancora nocivi. Da noi questa pratica, ancorché non espressamente vietata, non è ancora diffusa. Esistono delle città, esistono delle realtà che sono più, chiamiamole, a rischio, dove è più possibile che vengano rivenduti prodotti che siano o avariati o comunque modificati, prodotti diciamo che entrino in questa catena di presunte truffe? No, non esistono delle regioni che spiccano rispetto ad altre. Va detta una cosa, che esistono delle regioni che producono più e di più che non altri determinati generi, per cui in quelle regioni noi troviamo una maggiore diffusione di questo o di quel prodotto. Ad esempio l'ultima operazione che ci ha consentito di sequestrare 2.000 tonnellate di alimenti vede coinvolte alcune regioni piuttosto che altre, non fosse altro perché risiedono in quelle regioni, in quelle aree, maggior numero di siti e di grandi magazzini di stoccaggio. Lei ha parlato prima di criminalità comune che gestisce alcuni di questi traffici anche. Ci faccia degli esempi, un identikit delle persone che vengono denunciate per questo tipo di adulterazioni? Certamente sono degli imprenditori infedeli di settore, certamente tra le persone che noi referiamo ci sono, non sono dei neofiti, diciamo, sono persone spesso che in maniera anche recidiva commettono questo tipo di reato. Ma partendo da una equivalenza assiomatica, che laddove c'è grande interesse economico c'è anche la grande criminalità, noi non escludiamo, anzi siamo, come dire, lavoriamo costantemente con questa consapevolezza che anche il grande crimine, anche quello organizzato, specie a determinate latitudini, è molto interessato al settore agroalimentare. In particolare, quali delle malavite organizzate italiane è più interessata al settore agroalimentare? Ci sono delle distinzioni di interesse a seconda della produzione locale, tenuto conto che così come i beni sono globalizzati ormai da decenni, da più lustri, anche la criminalità è altamente dinamica sul territorio e quindi riesce a spostare uomini, mezzi, risorse ed interessi con una facilità straordinaria. Ma questo vuol dire che anche dietro la circolazione di prodotti che possono essere stati modificati o di prodotti che casomai sono avariati e che vengono soltanto abbelliti per essere venduti, ci sono interessi della malavita organizzata? L'interesse prioritario del criminale è quello di ottenere un riscontro economico, ecco. La criminalità organizzata è interessata e abbiamo lavorato, stiamo lavorando e continueremo a farlo con discreti riscontri e risultati. Ci dia qualche elemento in più su questo fronte. Alcune indagini sono in corso, per cui non posso come dire, dilungarmi molto, però sappia che ci sono delle attività anche in atto che ci incoraggiano in questa ipotesi e ci lasciano pensare che, parlo di una recente di una recentissima attualità e presto probabilmente auspicabilmente ne vedremo anche i risultati, ci incoraggiano su ipotesi che ci lasciano pensare a una immediata connessione tra criminalità organizzata con l'imprenditoria di settore. Storielle. Storiacce. Le mani della malavita organizzata sui cibi più pregiati. C'è anche questo dietro le tante truffe che rischiano di arrivare sulle nostre tavole. Spunti investigativi in corso, come abbiamo sentito nella prima parte della rubrica, conducono anche in questa direzione. Ed è sempre l'odore dei soldi a far scoprire casi di cibi scaduti e poi ringiovaniti o le tante contraffazioni intorno a nomi d'eccellenza. E molto spesso i cibi avariati finiscono nelle mense pubbliche. Antonio Amoroso dei Carabinieri di NAS, casi del genere ne ha visti tanti. È chiaro che le strutture pubbliche, soprattutto quelle che appartengono ai grandi circuiti, sono una straordinaria opportunità di distribuzione contestuale di cibi avariati, ma è pur vero che ci sono i sistemi di autocontrollo all'interno delle stesse aziende. Esiste anche un sistema integrato che si va sempre di più infittendo tra le varie agenzie deputate al controllo della emissione sul territorio nazionale, soprattutto da paesi terzi, di cibi che non sono sani. Mi riferisco ai posti di ispezione frontaliera, mi riferisco all'Agenzia delle Dogane, alle capitanerie. Ha fatto riferimento a paesi stranieri. Ci sono state inchieste che hanno coinvolto, che hanno tracciato delle rotte che conducono in entrata o in uscita verso l'estero? Si pensa ad esempio alla melamina della Cina, ma si pensi anche alla carne irlandese che è provenuta dall'Europa. Sappiamo che c'è una diversificazione, soprattutto nei paesi extraeuropei, di sensibilità sociale e di normativa di settore, che certamente non è così aggiornata e non è così severa come quella dell'Unione Europea, in particolare come quella della nostra nazione. L'insidia è costante, è ciclica, quasi mai, grazie a Dio, se non in un medio passato ha causato decessi. Abbiamo oltre 1.100 uomini che fanno solo questo tipo di attività, che si aggiornano costantemente. Siamo inseriti in un sistema integrato nell'ambito del Ministero della Salute, in particolare del Dipartimento della Sicurezza Pubblica, che costituisce punto di allerta a livello europeo. Vale a dire che ogni qualvolta in Italia o in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea si verifica una crisi connessa all'alimentazione, scattano automaticamente in un brevissimo volgere temporale dei sistemi di allerta e di allarme che è tesi al sequestro, alla sottrazione immediata dai circuiti alimentari di qualsiasi alimento che, seppure in via ipotetica, può risultare nocivo, noi interveniamo e sottraiamo. Certo, avete invece mai trovato casi in cui prodotti avariati italiani stavano per essere venduti all'estero? Invece stati i casi di cibi non avariati, ma che non rispettavano le disciplinate di cui le parlavo. Le confederazioni di settore stanno molto attenti a questo, consapevoli del danno all'immagine e del conseguente danno economico che un cibo italiano potrebbe avere laddove e qualora dovesse essere assoggettato a sofisticazioni, adulterazioni. Tempo fa destò allarme il vino adulterato. Il metanolo. Quando io dicevo, mi riferivo a decessi, purtroppo mi riferivo proprio al vino al metanolo. Come prima contromisura governativa fu triplicato l'organico del Comando Carabinieri Tutela della Salute. Si trattava di aggiunta di sostanze velenose, il metanolo appunto, che doveva servire ad arricchire della sostanza liquida pseudovino, conferendo al medesimo apparentemente le stesse attribuzioni organolettiche senza averle. Invece inchieste ben più recenti hanno messo un po' sotto accusa, creando allarme intorno ad uno dei più celebri marchi di vini italiani, ossia quello del Brunello e dei vini toscani, fatta salva che lì non si trattava di variazione che potesse mettere a rischio la salute, ma di un mancato rispetto delle norme. Ci sono novità? Si trattava di una palese inosservanza disciplinare, praticamente di un inserimento in forma massiva di Montepulciano d'Abruzzo, di vitigni comunque qualificati, frammisti a vitigni ancora più qualificati come quelli del Brunello di Montalcino. Si trattava di una truffa né più né meno, quindi di frode in commercio. Certo. Abbiamo visto che ad esempio sotto Natale c'è stato un forte sequestro dei prodotti tipici natalizi, a cominciare dal capitone. Ecco, i momenti di maggiore allarme, quelli in cui è più facile che si possano trovare dei prodotti che non siano genuini, proprio perché il mercato ne richiede in gran numero, sono collegati con dei momenti ben precisi, e ad esempio il caso dei capitoni, ci racconti un po' com'è andata? Il NAS, d'intesa con il Dipartimento della Sicurezza Alimentare, fa delle campagne periodiche già prestabilite, già previste, con cadenza mensile. Adesso si integrano delle iniziative di natura amministrativa o investigativa autonome da parte dei Carabinieri del MAS. È chiaro che in occasione delle festività, in questo caso natalizie, ma anche quelle pasquali, c'è una più diffusa tendenza a introdurre sul mercato, per corrispondere all'aumentata esigenza del mercato medesimo, generi alimentari che talvolta somigliano solo a quelli richiesti. È il caso del capitone, ma è il caso anche delle lenticchie, è il caso dello zampone, dei panettoni o a Pasqua delle uova di Pasqua. E per quanto riguarda invece l'industria alimentare che ruota intorno a locali, ristoranti, ma anche macellerie straniere presenti in Italia? Costituiscono oggetto di periodica attenzione, non fosse altro per tradizioni popolari, ovvero per una minore o diversa sensibilità nei confronti dell'alimentazione, o ancora talvolta per tabù o credo popolari. Tempo fa in ristoranti cinesi ci sono stati dei controlli e dei sequestri. Passano attraverso canali della loro malavita? Non necessariamente. Va detto che siamo molto interessati ai grandi traffici di approvvigionamento dell'alimentazione. I singoli ristoranti vengono periodicamente, costantemente monitorati. Che tipo di situazioni avete trovato? Soprattutto per fatti concernenti l'igiene e i processi di confezionamento prima che arrivi sulla tavola. Sono aspetti contravvenzionali. Ci stiamo interessando invece ai grandi traffici di approvvigionamento, e in quest'ottica siamo, come dire, in stretta connessione con l'Agenzia delle Dogane per estendere i nostri studi analitici e di polizia su rotte più globali. Traffici di approvvigionamento vuol dire tentativi di far entrare anche in Italia in modo illecito dei prodotti alimentari stranieri? Ogni cibo deve essere tracciabile. Questo significa che ogni cittadino, ogni ente, ogni amministrazione deputata al controllo deve sapere in qualsiasi momento da dove viene quel cibo, cosa contiene quella confezione, quando è stato inscatolato quel cibo, quali sono le caratteristiche di quel determinato alimento. Quindi immagino che sotto stretta sorveglianza ci siano soprattutto i grandi porti italiani, cioè ci troviamo di fronte a scene di container che portano prodotti di cui non si conosce la storia? È capitato non più tardi lo scorso dicembre, ma capita. E che cosa è successo lo scorso dicembre? Proprio all'interno dei container c'erano cibi la cui provenienza non era nota e chiara, se non per il fatto che provenisse dalla Repubblica Popolare Cinese. Erano cibi in che condizioni erano? No, in quel caso non erano cibi che erano senz'altro variati, erano cibi di non chiara provenienza. Noi era sufficiente questo per poter impedire che potessero arrivare sulle tavole dei ristoranti cinesi o comunque dei negozi etnici cinesi. Una stima degli interessi che ruotano intorno alle truffe legate al settore alimentare. E proprio all'indomani delle festività natalizie, 2.000 tonnellate di alimenti. La stima dello scorso anno, dell'intero 2008, ci ha portato a sequestrare circa oltre 34.000 tonnellate di alimenti. Quindi numeri molto, molto importanti. Parliamo di cifre enormi, possono passare attraverso anche il web le truffe alimentari? Assolutamente sì. Noi ce ne sono già state? Nel campo alimentare al momento non ancora, sono stati nel campo dei medicinali per esempio, parliamo di anabolizzanti, soprattutto di quelli, ormai abbiamo ben chiari i processi che i venditori a livello internazionale, e questa volta non c'è la Cina di mezzo, ci sono anche paesi occidentali, c'è l'Oriente europeo, l'Est europeo, ci sono anche loro, queste vendite hanno delle caratteristiche specifiche di grande dinamismo, appaiono e scompaiono i siti con grossa rapidità, cerchiamo e spesso ci riusciamo di prevenirli con tecniche investigative anche tradizionali, anche con acquisti mirati, simulati, riusciamo a individuare i malfattori del settore.